Letture di Radio 24. L'origine del fenomeno mafioso si perde nella notte dei tempi, ma è il 1861, l'anno dell'Unità d'Italia, quello che può essere considerato come il momento in cui la mafia diventa una vera organizzazione criminale, come scrive Antonella Colonna Vilasi nel suo libro Mafie. Pur piena di contraddizioni e di ombre, la mafia non era ancora una vera e propria organizzazione criminale. Si muoveva innegabilmente ai confini della legge, elevandosi a sostituto dell'autorità statale in molte aree, ma non era ancora diventata quella struttura di potere criminale che, saldando interessi economici e di potere, si sarebbe avviata a rivestire un ruolo non secondario perfino nello sviluppo di gran parte del Mezzogiorno d'Italia. Esercitava un potere socialmente accettato e in definitiva parzialmente ordinatore in una realtà come quella siciliana, caratterizzata da una persistente carenza di corpi intermedi in grado di mediare fra l'élite dei grandi latifondisti e i contadini. Il ruolo che altrove svolgeva egregiamente la classe borghese imprenditoriale, aiutata dal nascente Stato liberale. Come già accennato, il 1861 è l'anno di cesura convenzionalmente adottato dalla storiografia e saggistica contemporanea per indicare la trasformazione definitiva della mafia da organizzazione extra-statale ad organizzazione anti-statale, ovvero sia una struttura in concorrenza e a volte in guerra con l'autorità legittimamente costituita. Da quel momento, lentamente, la mafia andò caratterizzandosi come un'associazione al servizio di vari poteri economici, anche antagonisti fra loro, con lo scopo di far trarre loro maggior profitto tramite operazioni ai margini della legge, attraverso metodi estorsivi come intimidazioni, taglio di alberi, incendio di messi, sgozzamento di animali, ricatti, altri mezzi di pressione, lettere anonime, gesti e segni particolari come i colpi di fucile sui muri delle case delle vittime. Tipici personaggi rappresentanti questa trasformazione della mafia in controllo effettivo del territorio per conto dei latifondisti erano i campieri, perché controllavano i campi, o gabellotti, in quanto riscuotevano per conto del padrone le gabelle. Uno dei primi documenti ufficiali che descrive e affronta la questione mafia risale al lontano 1874, nel quale il prefetto di Girgenti, l'attuale Agrigento, in un rapporto al ministro dell'Interno, descriveva la mafia nel modo seguente. Dopo questa prima descrizione, lo stesso prefetto così concludeva: «E però la mafia si può definire criminoso silenzio, sfacciato coraggio, impudente falsità, tradimento alle intime relazioni personali, resistenza a tutte le leggi morali e civili». Questa descrizione d'epoca sottolinea il carattere psicologico del fenomeno mafioso, trascurandone l'aspetto associativo e le relative connessioni con la struttura sociale ed economica del territorio. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Antonella Colonna Vilasi, Mafie, origini e sviluppo del fenomeno mafioso. Di Sensi Editore, 160 pagine, 12 euro. Letture di Radio 24. Elam è una nuotatrice, ma in Iran è osteggiata perché donna. Accusata di indossare un costume troppo osé, si è inventato una tuta da sub coperta da un foulard in testa e un camicione nero fino ai piedi. Così ha nuotato per 20 chilometri, ma l'Iran nega lo stesso il suo record. Ora denuncia in rete. L'acqua non può essere un privilegio per maschi. Un pesce di nome Elam, Elam Ashgari. Campionessa in quell'Iran dove ogni donna è tabù, che per veder riconosciuto il suo talento in mare ha elaborato una mise castigatissima. Composta da una muta da sub, un camicione nero lungo fino ai piedi e una cuffia, coperta a sua volta da un foulard. Abiti che una volta bagnati pesano più di 6 kg. Nessuno vorrebbe nuotare così, ma non avevo scelta. Con quell'armamentario addosso, lo scorso 11 giugno ha nuotato per 20 km in mare aperto a largo di Noshar, Mar Caspio. E già sarebbe un'impresa da campioni. Ma Elam, che ha 32 anni e nuota da quando ne aveva 5, lo ha fatto in meno di 6 ore, conquistando quello che nel suo paese è il nuovo record nazionale. record che ora nessuno vuole riconoscerle. Pur sotto quella sorta di hijab acquatico, qualcuno avrebbe intravisto le sue forme femminili. C'erano 6 ufficiali di gara a certificare la mia impresa. Nessuno aveva avuto da eccepire. Solo dopo, la federazione ha ritoccato il record a 18 chilometri e poi deciso di non registrarlo. Il motivo? Hanno detto che non importa quanto islamico fosse il mio costume, era comunque inaccettabile. Elam Ashghari non ci sta e affida la sua denuncia a un video postato in rete che è già diventato virale, dove, nuotando coperta, ovviamente da capo a piedi, racconta la sua storia. Sportiva di professione, insegna nuoto alle ragazze da quando aveva 17 anni, perfezionando le sue tecniche, soprattutto grazie a internet, ha creato il suo costume speciale proprio per non rinunciare al suo sogno, anzi, alla sua battaglia. Nuotare non può essere un privilegio maschile. Parole rivoluzionarie in un paese dove le donne possono utilizzare le piscine pubbliche solo in giorni e orari particolari e sono obbligate a frequentare spiagge femminili dove comunque devono stare completamente coperte e soprattutto non possono avventurarsi in mare aperto. Le atlete hanno poche possibilità di competere. Le nuotatrici iraniane non possono partecipare a gare fuori dal paese e l'unica competizione internazionale dove sono ammesse sono i Women Islamic Games, giochi femminili islamici che si tengono ogni 4 anni proprio a Teheran. Elam ha sempre combattuto questi divieti e nel 2008, con lo stesso burkini addosso, era riuscita perfino a ottenere il suo primo record ufficiale, regolarmente certificato dal Ministero dello Sport per i 12 chilometri a dorso. Poi nel 2010 aveva tentato di circumnavigare l'isola di Kish nel Golfo Persico, ma dopo appena 5 chilometri e nonostante la presenza anche in quell'occasione dei giudici di gara, venne letteralmente investita dalla barca della polizia che tentava di fermarla. I suoi abiti finirono strappati e lei fu lievemente ferita ad una gamba. Un'esperienza scioccante. Non dormì per notti e notti. Questa volta la campionessa non ci sta e ha deciso di chiedere aiuto alla rete, anche perché, ha spiegato al quotidiano inglese Guardian, spera che col nuovo presidente Hassan Rouhani le cose possano cambiare e nel nuovo governo non ci sia spazio per quelle persone che hanno finora ostacolato i miei tentativi. I miei 20 chilometri sono ostaggio di persone che non potrebbero nuotare nemmeno per 20 metri, dice Elam. Mi hanno detto di lasciar perdere, di pensare ad altro, ma no, questa volta io non rinuncio. Riuscirà almeno la rete di internet a salvare il pesce di nome Elam? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Elam, la campionessa di nuoto che imbarazza gli ayatollah, a firma di Anna Lombardi e pubblicato da Repubblica di lunedì 8 luglio. Prima i genitori conoscevano il proprio figlio solo da nato. Con l'avvento dell'ecografia, l'album di famiglia si è arricchito delle prime foto prima della nascita. Ora potrebbe arrivare un ulteriore salto in avanti. Il bebè potrà avere in banca tutta la sua mappa genetica. È un nuovo metodo presentato domenica scorsa a Londra che serve a vedere, con un solo esame in sole 16 ore, tutto ciò che non va nei cromosomi e nei geni per avere un figlio sano. Molto probabilmente geneticamente sano. Così sarà il bimbo, o meglio ciascuno dei due bimbi, nati da due coppie diverse il mese scorso in Inghilterra, dopo che il complesso dei loro geni è stato scrutinato da cima a fondo, con una nuova tecnica di sequenziamento veloce del DNA. Per quanto riguarda le sue predisposizioni genetiche, questo ragazzo non dovrebbe avere quindi brutte sorprese. I più importanti dei suoi geni non nascondono nessuna insidia, e così sarà per buona parte della sua vita. Per lui, per i genitori e per tutti i suoi parenti non è una sicurezza da poco. Con questo metodo non si possono prevedere ovviamente le malattie o gli incidenti che gli capiteranno, né le mutazioni genetiche che potranno comparire in qualche parte del suo corpo a tarda età, ma per tutto il resto starà al sicuro. Non si potrà dire nemmeno se sarà molto intelligente o meno, bello o brutto, alto o basso, magro o grasso, né se studierà matematica o greco o si dedicherà all'elettronica o alla contabilità. Questo non è dato saperlo. Non è quindi un bimbo su misura, ma un bimbo geneticamente sano. Una cosa, questa, che qualche anno fa non sarebbe stata neppure pensabile. Come è potuto succedere tutto questo? Combinando due tecniche, in parte già sperimentate e in parte nuove di zecca. La parte sperimentata è prima di tutto la diagnosi genetica cosiddetta preimpianto. Si preleva da un abbozzo di embrione umano di 5 giorni, ottenuto tramite una fecondazione in vitro, una delle pochissime cellule che lo compongono. Ci si conduce sopra un'approfondita analisi genetica e se tutto è a posto, si impianta il resto delle cellule dell'abbozzo in un utero e gli si lascia completare la sua gestazione. All'estero questo viene fatto ormai da qualche tempo, mentre in Italia è sostanzialmente proibito. L'analisi genetica consiste nell'esame per sommi capi di tutto il DNA contenuto nella cellula in questione. Questa analisi esclude le principali mutazioni possibili, ma non tutte. La parte nuova è invece rappresentata dalla tecnica utilizzata per analizzare il suo DNA. Invece di studiarlo un po' qui e un po' là, questo DNA viene analizzato nella sua interezza, in poche ore, usando il cosiddetto sequenziamento di nuova generazione. Non possiamo nemmeno tentare di spiegare in cosa consiste, ma ci accontenteremo di dire che questo metodo si avvicina di molto al determinarne la sequenza completa, nucleotide per nucleotide. Un trionfo della scienza e della tecnica, quindi, con un paio di interrogativi etici. A parte la liceità di condurre una fecondazione in vitro, non vista da tutti di buon occhio, si pone il problema della diffusione e della potenza di tale tecnica. Questa dovrebbe essere messa a disposizione di tutti e non soltanto di qualche privilegiato. E resta da valutare se in futuro ci si accontenterà di avere figli sani o si pretenderà di avere figli su misura. Si tratta di problemi che la società deve analizzare e dibattere al più presto, ma sarebbe folle rinunciare a uno strumento di questo tipo. Meglio sani per scelta che malati per caso. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Un figlio sano o su misura? A firma di Edoardo Boncinelli e pubblicato dal Corriere della Sera di lunedì 8 luglio. Papa Francesco, se ce ne fosse ancora bisogno, chiarisce giorno dopo giorno la sua visione papale della Chiesa. Da una parte attenzione e piena accoglienza agli ultimi, ma dall'altra forte presenza nella Curia Vaticana, per correggere le inefficienze sedimentate dal tempo e per portare anche in Vaticano uno stile nuovo. Allora, Eminenza, è stato fatto? Il cardinale Tarcisio Bertone, ancora per poco tempo segretario di Stato, sa bene che quando Francesco telefona personalmente per verificare l'esecuzione di una sua richiesta, non è possibile tergiversare. L'udienza del cardinale avviene solitamente il lunedì, ma già uno o due giorni dopo il Papa chiama personalmente Bertone, come lo stesso porporato ha confidato a chi gli sta vicino, per assicurarsi che ciò di cui si è discusso stia diventando operativo e venga messo in pratica. Sbaglierebbe dunque chi pensasse che il Papa della porta accanto, così capace di mostrare umanità e vicinanza alle persone, piegandosi su di esse e abbracciandole durante le udienze, abbia derogato al suo ruolo. Nei quasi 8 anni di regno di Benedetto XVI, racconta un prelato vaticano, è accaduto più volte che i suoi collaboratori abbiano usato 2 velocità nel mettere in pratica le indicazioni papali. Il pontefice considerava una certa nomina fatta e invece venivano frapposte difficoltà su difficoltà e lo stesso Ratzinger scopriva, tempo dopo, che la pratica era rimasta nel limbo, sospesa. Il giudizio qui in Vaticano, continua il nostro interlocutore, è unanime. Tutti riconoscono la grandezza di Benedetto XVI, la profondità del suo sguardo sulla Chiesa, la sua umiltà manifestata anche nel gesto della rinuncia. Al tempo stesso fareste fatica a trovare qualcuno che vi dica che la curia in questi anni abbia funzionato a dovere. Una lamentela diffusa riguardava l'accessibilità del Papa. Un cardinale capo di Castero ha dovuto attendere 8 mesi per un'udienza. Qualcun altro non l'ha neanche ottenuta. Con Francesco, ovviamente, i problemi non sono scomparsi, ma il clima sta cambiando. I porporati e i vescovi della curia oggi non hanno difficoltà a incontrare Francesco per affrontare direttamente con lui i problemi legati al loro lavoro. La segreteria di Stato sta lentamente perdendo centralità e influenza, prima ancora delle attese riforme strutturali che dovrebbero riportarla ad essere una segreteria papale al servizio del Vescovo di Roma, non un organismo centrale di governo della Curia e più in generale della Chiesa. Bergoglio è abituato a ritmi di lavoro molto serrati e, come i suoi predecessori, non si risparmia. Ama il contatto diretto con le persone e soprattutto apprezza la franchezza negli interlocutori. Non vuole avere accanto a sé dei cortigiani, spiega alla stampa Antonio Pelaio, sacerdote, vaticanista di lungo corso, nonché assistente ecclesiastico dell'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, né tantomeno degli adulatori. Vuole gente sincera, anche che lo critichi. Ascolta i consigli di tutti, si informa e poi decide in coscienza. Come ha fatto pochi giorni dopo l'elezione, quando ha dovuto celebrare la messa del Giovedì Santo nel carcere minorile di Casal del Marmo, lavando i piedi, senza giornalisti al seguito, a 12 ragazzi e ragazze ospiti dell'istituto. Alcuni collaboratori l'avevano decisamente sconsigliato. Quella liturgia il Papa l'ha sempre celebrata in Laterano o in San Pietro, non nelle periferie geografiche o esistenziali così care a Bergoglio, abituato a far memoria dell'ultima cena nelle comunità di recupero per tossicodipendenti, negli ospedali, nei centri di accoglienza per ragazze madri. Per capire, sarebbe bastato contemplare l'autentica felicità nel volto di una giovane musulmana serba, inquilina abituale del carcere di Casal del Marmo, a cui Francesco ha lavato e baciato i piedi prima di alzare gli occhi e sorriderle. I fiorescenti ed eloquenti segni sono l'intervento deciso e preciso sullo IOR per sradicare definitivamente la possibilità di considerare il Vaticano un paradiso offshore. La volontà di canonizzare Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, anche senza il riconoscimento di un secondo miracolo. La decisione di recarsi a Lampedusa senza seguito di politici e autorità ecclesiastiche. O ancora la sedia papale bianca rimasta vuota al recente concerto nell'aula Paolo VI a motivo di impegni più urgenti e improrogabili. Atti che mostrano l'efficacia di una famosa affermazione di Don Giuseppe De Luca, colto consigliere di Papa Roncalli, che non a caso aveva studiato dai gesuiti: nessuna migliore maniera di dire le cose che farle. Il Papa cerca di riformare innanzitutto con l'esempio. Non è il Terminator dotato di lanciafiamme che qualcuno vorrebbe per risolvere in radice qualche malcostume curiale. Non è solito prendere decisioni affrettate. Proprio per questo, oltre Tevere, cresce di giorno in giorno l'incertezza di quanti hanno capito di non poter gestire Francesco secondo le vecchie abitudini. Avete ascoltato la lettura dell'inchiesta di Andrea Tornielli «Dallo IOR alla Segreteria di Stato, la grande riforma di Bergoglio», pubblicata dalla Stampa di lunedì 8 luglio.